Treviso, Trellici, una Castello, uno Zotto e uno Zotto. Però c'è anche, no? Quindi c'è la scrivania, capito? La chiudi tutti lì, sino tu. Quindi scorrevo e c'è la scrivania, e sotto c'è il cassetto, vai giusto. Ma va, cominciano a coglievarsi due domande, va, cominciano a mandare figli, e lui si fa i suoi appartamenti. Tu vedi se prendi a Sua Edo, ma poi si stava Edo, faccia la sua. Sì, quello sì, però un po' di volte mi dava fastidio, cazzo. Oh, guarda che un po' di volte mi dicevano che con i scia gli ho fatto il culo, e cazzo, vedi se andate, non vi bastano in manco da lui, vai, vai, i rocchi. Perché cazzo di noi andavano incontro a una truffa, sì, è vero. Cazzo, è proprio vero, se non conosci, io, si fanno nuovo. Cazzo, e se non si andava a truffare a mesi, per esempio, chi si travagliava da midretto, basiare mobili proprio, sopra il dito di mamma, cazzo, e l'altro sopra il dito basiare a Missouri. Guarda che a me io quando vedi a cazzo mi sono proprio anche disgraziato quando non cambia il tempo che mi rovedi ai chili, no? Cazzo tu, adesso di qua queste cose, ma a me ho riparitato il gruppo di fare due, ad appunto di lui, in lavorazione, però cazzo, la madre. Ci rimarrebbe male, cazzo, non mi male, cazzo, che fa imbrogliare tutti, perché se uno non se ne intende, cazzo, chiedere un altro, si fa la lotta, non si fa anche, cazzo, un vicino, allora se ti vuole pigliare di questa roba fatta tutti, un favore. Il gruppatore che andava avanti, poi più bagnissimo, la cosa gruppano dai denti, li vendono la roba che se ne pigliano un vagone e li guadagnano sempre. Allora, come dobbiamo fare dopo? Specialmente quando mi dispiace ho rimesso, cazzo ci ha rimesso, cosa cazzo ci ha rimesso? Si va via tutto un mese che va via in faccia per dire, che cazzo ci ha rimesso? Ma ancora non si va bene di mesi, se non sta consumare due chi, cazzo, ma lui che si va via, come stava a aprire la bocca, pensi fuggia, già me ne sto andando, mi dice, vai chi ne va, che posso ti comprare? Se ci arriva, ci ha rimesso nel senso che non mi ha guadagnato quanto dovia guadagnare in previsione, no? Non va di zuffi, bastardo. Le battute ci facevano, non sa di chi non aveva guadagnato, gli sedili di attacco non aveva guadagnato, io che ci vado io a ritirare il materiale, in deposito, a prendere tutto il materiale che ci vuole, le fatture le vedo, cosa costa e cosa non gli costa la cosa, e allora che cazzo mi dice, e poi vado anche a consegnarle per il buono che mi dai da incassare, e non so come tanto cazzo l'hai truffa da lì. Cazzo, dai a dimostrare, Marco, proprio con me, o no? Che tu vedi tutto, vedi, sempre di presi, ti canto la bagava e ti canto la riprendeva. E quindi sapevi quanto c'era il carrato, se non dire truffato. E allora, adesso che abbiamo gittato, devi andare là a ritirare questa cosa e tutto a posto. Prima andati a Edo, pigliava la roba, copri, e se lo sono, mi sono ancora qua e là a ritirare questo materiale e tutto a posto. Per non vedere il prezzo io, no? Mi la capa a Edo, gli mi la capa, una bulletta azzurra di trasferimento, di trasporto. Per non vedere io quanto cazzo ho la spesa, cazzo, come se chi fa un materiale non lo sappia cazzo buttare, quando i richiedi mi dice, cazzo di cosa ho con le richiedi, hai visto, e che tu mi dice, adesso ripresi, di fare i tipi, no, cioè, si crede che non ho finito a sapere un materiale, se la non lo riconciliava, la voletta di fare un brigio di cazzo cazzo, era in cazzo, e lo sapevo stessi, e tu ti chiedi a più fulmo di me, come faccio, ci dà la legge, ci dà l'inganno, ma non lo sa, noi italiani siamo cazzo, al primo posto per sapersi arrangiare, ma io posso ammettere, arrangiati, fuzzi a uno vinna, cazzo, ma lo fuzzi un po', voilà, cazzo, a me mi rompe le palle quelle, invece il buco valaccio era più lo fuzzi, e dice, il buco valaccio lo fuzzi a ribì, hai tutti? Sì, perché il poveraccio non se ne intendeva, non sapeva il valore dei soldi e quindi gli veniva più bene a truffarlo, capito? Sì, un po' di da un fatto che si rivede, i bisogni, i subuglioni, cazzo proprio l'altro si doveva abbassare, roba la no. Cazzo, un gatto bica, gira, anda, domanda, questa sì, e invece lui cazzo proprio, gli abbaccava a cazzo, proprio, tu, voleva che la vista di faceva via, tira, tirava il saiello. Allora, magari i bovaracci andavano in vincenti, chi pagavano di manco, e invece cazzo roba di truffa, e purtroppo c'è così. Pagavi di manco il materiale buono, come si dice, durante duratura nella vita, e muori tu, moriranno i tuoi figli facendo le corna a buffoni, no, e tutti le barugure, ma che mi giri, no? E tutti non li distruggi così, bim bum ma, tutti vanno a letti. E dopo un mese ti ne va sotto in terra, ecco. Non lui ha paura, già se vedi un registro, hai passato il gatto. Se dicevi tu la più di me questo mobile, me ne c'è solo lo sportello in terra. Hai detto, venga a pigliarti tutta la mobile, tu, fammi, anche se no te ne fai uranchi, l'avevi detto. Sì, se una volta mi hanno mandato tutto in Dareggio con la merce, arrivi via, Lugore, Oristano, Macomer, Sassuolzea, e cos'è? E la fattura c'era, e io sì, mi questa la fattura, poi glielo faccio stare chiaro, allora fammi vedere la fattura, e cos'è il cagosa? E poi non lo so, con lui lo fa però lì cosa. Ma una cosa, non apri manco il furgone, non li farà nulla, gira la gamma e vai a dire, ti la buddisce giusto, se io non me l'ha fatto, e un bel me l'ha fatto, sapete che ha decarregato, è piazzato, a fare una cosa, smonta le giunte, da di burire, sta a carregare, smonta, poi c'è di tutti andare su, va, e adatti buschi, e cosa mi sarei colato, e allora tutti quando arrivo lì, arrivi a chi mi gruppo dove torna a carro, ma io pensavo sempre scherzando, scherzando, e poi lì io gli ho stato a telefonare lì, gli ho stato a telefonare, tutto il giusto quello che ti la roba in cambio. A chi ci avvisava che era non detto, così è, e allora si faceva buttato in la rete. A parte quello, a parte quello, poi ci cambiava anche il prezzo, se lo modificava, oh, cagignasse, gocce, due prese, tipo l'IVA inclusa due volte, lo prese un paio di piedi di ghisso, era variato, c'era aumentata di 100 mila franchi, o 50 mila franchi, ghisso, che l'ha fatto vedere che costava 100, da voi non aveva costato vedere che costava 130, ma fatti, certo, per la roba qui si ribigliava, ma per la ghisso che cazzo che si mandava a andare isso, certo, dai gruppi. Non tutti sono fessi. Se io concordo con te, firmo, mi dici un milione, certo, arriva il giorno che mi devi consegnare la roba, vieni, e mi trovo nel buono scritto 1.150.000 e il risultato di 4 di quest'altro. Allora dici, se ne trovava, lo direi, il trasporto, questa cosa mi costa l'operaio, i giudici al giorno, lì lo sa, che operaio anche lì, cosa costa l'operaio, pure che c'ha dipendenti, cosa costa l'operaio, un bacio di imbaccava bomba, ci mandavano a cagare, si mandavano a descendere. Ma c'è che era tutto mondezza. Ma nel turbino ti ha abbigliato, grazie. A tra cui la mondezza io. Ehi, va. Oh, un bel, un bel, si ancora stava nel gruppo un mezzo. E tu, calmino, guarda che io sono un paio, sto lavorando con loro. A me di cosa gli ha fatto, se gli ha aumentato il prezzo o non è quello che ha visto lì, che gli ha fatto. Sono cazzi miei, quelli sono cazzi miei. Dunque si rilassi, calma, a chi mi li rubrico dalla burgone e tre con la capo. Ehi, sì, cazzi miei. Perché sono già fratella? Sì, sì, allora sono detto, la telefono a messa, allora mi che cazzo. Scusa, o no? E mi pariubio. Sempre un attimo di sondai. Grazie. Che devo fare una cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, là. Vado là, ciao, anch'io faccio una cosa qua. Ciao. Ciao Luca, se ci sei nascosto. Alla prossima mia lo lascio acceso, che devo fare una cosetta qua. Ciao Luca.